non abbiate paura, non abbiamo paura, non spingiamoci la vicenda, dialoghiamo, Io faccio una domanda un po' banale forse. Un popolo rom con queste caratteristiche interessanti, in una società diciamo che è ferma, ha un senso, cioè questi, cioè io abito a Trezzano sul Naviglio, ogni tanto sul viale che arriva verso Trezzano ci sono questi 4-5 carrozzoni che tutti cercano di evitare. Tu ripassi, il giorno dopo è un po' sporco, più o meno. Ecco, ma io posso ammirare questo modo fascinoso, direi, bellissimo, mi ricordo un po' il Romo, mi ricordo un po' Bonio Vadia che c'ha questo. Propone di dare il premio Nobel. No, io voglio dire, però ecco, mi sembra che non tanto che noi siamo migliori di loro, ci mancherebbe altro, però è un modo che, cioè cosa fa? Voglio dire, come vivono? Io capisco, danzino, è bellissimo, però come si sostengono, ecco. Ma non perché voglio colpevolizzare naturalmente. Cioè mi domando, è una cosa bella, un po' folcloristica, però ecco, forse andava bene 500 anni fa quando anche la società era diversa. Ecco. Beh, ci sono degli studi di sociologi e antropologi pubblicati recentemente da una casa editrice che si chiama XL, una giovane casa editrice molto aggressiva e molto interessante, che è sul popolo rom, e in particolare ci sono degli studi del comune di Roma anche, cioè molto interessanti. Per esempio, dei campi che io citavo, no? Il 70% dei Rom sono cittadini italiani. Quindi, cioè, a rigore, nessuno avrebbe il diritto di parlare di Rom. Siamo di fronte a cittadini italiani, che dovrebbero avere tutti i diritti dei cittadini italiani. Ma per un sistema, diciamo, di disfunzioni dello Stato italiano, di incongruenze anche, molti di questi cittadini italiani nati in Italia da genitori con cittadinanza non hanno documenti. Oggi questo è uno dei più grossi problemi, per esempio, che a Roma si stanno affrontando con il comune, col sistema scolastico, perché questo popolo normalmente chiamato nomade è in realtà un popolo per il 70% completamente stanziale, per esempio, che vive in questi campi da sempre perché non semplicemente non sono state fatte case, e anche perché probabilmente ha un'idea dell'abitazione un po' diversa da quella che noi abbiamo. Il fatto che tuttavia si siano la storia che io raccontavo di Vania Mancini e di questo gruppo di ragazze rom che ha messo in piedi questa esperienza è estremamente interessante, perché è un'esperienza intorno alla quale si è creato un altissimo livello di scolarizzazione dei bambini e delle bambine rom. Cioè questi bimbi e queste bimbe, attraverso una valorizzazione dei motivi culturali del loro popolo, ha trovato interesse anche a un processo di scolarizzazione che ha dovuto essere adattato, perché è un popolo che, come dire, ha un'idea della cultura, per dire, un po' diversa da quella che noi abbiamo. Ma io vengo da studi sociologici e non faccio fatica a pensare che sia evidente e ovvio che contesti culturali diversi, no? Storie culturali diverse pensino la scolarizzazione in modo diverso. Il problema può diventare esplosivo quando io impongo un sistema di scolarizzazione. Quando io, cioè, non prendo atto che questa società è una società ormai con molti ceppi culturali. I Rom, peraltro, sono uno dei più piccoli in Italia, cioè ci sono ormai le comunità, diciamo, del Marocco, dell'Albania, cioè del Senegal, che sono delle comunità in alcune città estremamente più ampie. Io, per dire, vivo in Piemonte, ma in una cittadina che è Dogliani, dove su una scuola, diciamo, elementare di 1200 bambini, no, 600 sono di altri paesi del mondo. Quindi, cioè, per dire, mia figlia fa la prima media e nella sua classe di 22 persone, 11, no, sono di altre parti del mondo, il che è una grandissima opportunità. che i bimbi colgono immediatamente, che noi non cogliamo così. Ma per dire, per mia figlia è un'esperienza straordinaria poter vivere, diciamo così, un'esperienza con bimbe e bimbi che vengono da tante altre parti, con tante altre fiabe, storie, racconti, musiche, sensibilità, danze, cioè eccetera, che costruiscono, come dire, un processo di crescita un po' diverso da quello che casomai ho avuto io in una certa valle, all'interno di una scuola che aveva, come dire, un orientamento molto più, diciamo, stoccato, ecco, molto più finalizzato. Poi c'è anche da dire che diciamo, il popolo rom, per entrare più nel merito, ha delle abilità, diciamo così, artigianali di straordinario valore. Da sempre il popolo rom è un popolo di lavoratori del rame, è un popolo di una lavorazione artigianale che, per esempio, in questa zona è estremamente valorizzata nei mercati, diciamo così, non massificati, là dove le persone, come dire, cercano oggetti che vengono fatti da veri e propri artisti del ferro, del rame, della lavorazione. Dico le prime cose che mi passano per la mente per dire che se noi usciamo dallo stereotipo e guardiamo gli altri senza la presunzione di misurarli alle nostre mappe culturali, allora possiamo vedere non in loro, non solo ciò che loro non hanno di noi, che questo, come dire, ma ciò che loro hanno che noi non abbiamo. È quello che, per ricordare una figura straordinaria del mondo cristiano e cattolico con la quale ho avuto la fortuna anche di lavorare e di introdurmi diciamo all'incontro con i popoli, che è Luigi Di Liero della Caritas Romana, cioè il direttore della Caritas Romana, per dirla con le sue parole, ecco, queste popolazioni che oggi il mondo ci mette, diciamo così, vicino e che non potremo certamente tenere lontano con lo schema non li desideriamo, perché il mondo oggi mischia e ci rende, come dicevo, un po' tutti stranieri a se stesso e quindi nella necessità di inventare i percorsi insieme. Bene, tutte queste popolazioni sono un'opportunità di cambiamento, e noi abbiamo bisogno di cambiare le nostre mappe culturali, ne abbiamo un bisogno profondo, ne abbiamo un bisogno perché i nostri figli vanno a scuola con i figli di gente che ha altre culture. Non basta dire un marocchino, ma occorre un paese, storia, a grandi tradizioni, a culture, sensibilità, musica, diciamo esattamente come non di altro tipo. Perché non cogliere questa opportunità, non disporci alla costruzione di un legame, invece che alla recisione di un legame, a dire no, tu la fortezza Europa devi star fuori, io qui, questa è la mia terra. La terra non è di nessuno. La terra è degli umani. Oggi noi siamo di fronte alla necessità, come specie, di immaginarsi. Tu hai usato una parola bella e desueta, la parola comunità. Ebbene, comunità oggi, che senso possiamo dare alla parola comunità oggi, dopo il famoso discorso di Albert Einstein sulla bomba atomica, dopo Hiroshima? Einstein disse: se oggi noi possiamo ancora pensare a una forma di comunità, dobbiamo pensarla grande come la Terra. Non possiamo più pensare un'altra Hiroshima, perché è un pensiero impensabile, eppure è un pensiero pensato. È un pensiero che viene pensato tutti i giorni, ci abituiamo a leggerlo sui giornali, ma diciamo così, ecco, è molto meglio pensare l'impensabile di una comunità umana più che di un mondo diciamo che si fa la guerra per questa parte di terra o per questa parte di privilegi. Ho voluto dire la prima discriminazione: 20% della popolazione mondiale che ha l'80% delle risorse, per dare una misura che tutti sappiamo. Non sono parole, voglio dire, nuove queste, Non ci vuole la Touche semplicemente per dirle, o un economista particolare. No, oggi lo dicono sul Wall Street Journal, viene detto dappertutto, tutti lo sappiamo come sta, diciamo così, la mappa delle diseguaglianze e delle discriminazioni. E nessuno di noi nel profondo del suo cuore, credo, almeno tra noi che siamo qui questa sera, che siamo una parte, penso, anche con delle sue sensibilità, insomma, no? Nessuno di noi, penso, in cuor suo, cova veramente l'idea che sia possibile tenere qualcuno in un apartheid, casomai invisibile, un po' fuori dai confini dell'Europa, così non li vediamo neppure, no? O li teniamo. Ma neanche penso che noi possiamo tollerare questa, diciamo, orrenda situazione dei centri di permanenza temporanea, che nelle università italiane, nell'università di Verona, nell'università di Roma, nell'università di Lecce, dei docenti che hanno un nome e cognome, no? Disegnano come campi di concentramento sulla base di un discorso tecnico, non politico. Dicono: cos'è un campo di concentramento? Un campo di concentramento è un istituto in cui si recludono delle persone che non hanno commesso alcun reato. Tecnicamente un campo di concentramento è questo. Noi ne abbiamo tanti, ce ne sono più di 280 in Europa. E ne stanno costruendo moltissimi intorno a quest'idea non ingenua, no? Che queste persone devono essere tenute fuori. L'idea non ingenua, perché? Perché invece non è questo. L'obiettivo è proprio farle entrare dentro e farle entrare e trovarcele casomai anche poi, diciamo così, nel nostro piccolo, cioè trovarcele in casa perché fatichiamo ad arrivare alla fine del mese con i soldi che abbiamo, siamo famiglie estremamente piccole, abbiamo il papà ammalato, la nonna che insomma ha bisogno di attenzioni, allora ce ne prendiamo uno, lo piazziamo lì in casa e gli diciamo: tu per 24 ore al giorno adesso badi a mia nonna, eccetera. Con quali diritti? Zero. Cioè, quando non ti va più te ne vai. Noi raccontiamo nel lavoro che ho fatto, I dannati del lavoro, raccontiamo tante di queste storie, le raccontano le persone che le hanno vissute, donne e uomini, che quando le raccontano però piangono, poi anche dicono: ma perché? Perché tu, io ti do un lavoro, sono povero, ma perché tu devi pensare che su di me puoi fare una cosa che casomai con un tuo compatriota non pensi proprio di fare? Perché questo vale ai sindacati, alla polizia, ti denuncia e non lo posso fare. Ecco, questo è il discrimine.